Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. C'è un concetto che puntualmente mi piace ribadire almeno una volta l'anno e attiene al rapporto tra le donne e la tecnologia. Spesso mi vedo partecipe e inconsapevole complice di una certa consorteria maschile che vorrebbe le donne totalmente negate per tutti i mestieri che abbiano comunque a che fare con la tecnologia. Forse vale la pena di fare una piccola retrospettiva, almeno negli ultimi decenni, da quando il nostro paese si è affacciato comunque al problema dell'interfaccia tecnologica. Immaginate che la prima tecnologia domestica che entra in Italia dopo gli anni del boom economico era la tecnologia elettrodomestica, cioè erano gli oggetti che dovevano servire alle donne per affrancarsi da una sorta di schiavitù millenaria e per cominciare a fare alcuni mestieri quotidiani che le inchiavardavano a vita, a dare lo straccio inginocchiate per terra, a lavare facendosi delle mani terribili, a stirare, pulire, sgrassare tutto quello che gli uomini lasciavano di scoria concreta per giro per la casa. E quindi le donne hanno cominciato a osservare alcune macchine che in realtà supplivano delle funzioni umane. Erano le lavatrici, le lavapiatti, i frullatori, i ferri da stiro a vapore con possibilità di multiprogrammazione. E ricordo, questa è un'esperienza personale che chiunque se vuole può confutarmi, ma penso che troverà difficoltà nel farlo, che in realtà le vere regine della tecnologia erano proprio le donne. Gli uomini erano totalmente impreparati, impotenti di fronte a questi oggetti. A studiare e guardare il manuale di istruzioni erano le donne, a farli funzionare erano le donne. Non c'era marito e maschio italiano in tutti gli anni del boom, in tutti gli anni di piombo, in tutti i felici anni 80 che avesse familiarità con un programma di una lavatrice, semplicemente. Poi naturalmente è entrata in gioco la tecnologia consumer. Le macchine sono entrate dei giocattoli, almeno nella prima fase non più strumenti per supplire l'uomo in alcune sue funzioni, ma giocattoli. Quindi entra in casa una sorta di tecnologia ludica di cui l'uomo improvvisamente diventa il principe, il re incontrastato. Poi lentamente questa tecnologia da gioco che era è diventata indispensabile per vivere, per relazionarsi, per collegarsi tra persone e soprattutto strumento di utilità professionale indispensabile. Ecco l'uomo che in questo punto rimpugna il proprio scettro di padrone della tecnologia. Tu cosa vuoi sapere, donna della tecnologia? Però non si rende conto di quello che sta accadendo. Sta accadendo qualcosa di molto singolare, molto divertente, anche se molto sottotraccia, perlomeno non indicato dagli osservatori del nostro paese. Come l'Istat non aveva valutato che gli italiani avessero già familiarità con internet e nell'ultimo censimento li sono scoppiati i server nel giro di una giornata, perché non avevano mai immaginato che tanti italiani avessero familiarità con internet, bisogna rivedere alcuni punti comuni, per cui le facoltà di ingegneria, di informatica, in pratica delle discipline legate alla tecnologia sono facoltà per uomini, le donne fanno lettere, le donne fanno filosofia, le donne fanno scienza della comunicazione. No, in realtà c'è qualcosa scambiando radicalmente. Io questa mattina con gli ascoltatori, ma soprattutto con le ascoltatrici, che già ho solleticato dalla giornata di ieri tramite Facebook, invitandole a portare il loro contributo, a fare un coming out, uscire allo scoperto, dimostrare quante siete, quanto operate, quanto vi vedete, quanto vi coordinate, voi donne tecnologiche, siete pronte probabilmente a fare il grande salto. Simona Forti, buongiorno. Buongiorno. Simona Forti si occupa di community management e beta testing, appartiene allo staff del gruppo Girls Geek Dinners di Roma. Chi siete? Allora, le Girls Geek Dinners sono un gruppo di ragazze appassionate di tecnologia o che lavorano con la tecnologia. La tecnologia non è soltanto internet e nuovi media, ma quindi tecnologia in un ampio... Ecco, specifica per far vedere che sai di cosa parli. Scusa che devo dare, devi dare questa dimostrazione, voglio sfatare un luogo comune, perché mi è stato detto parlate donne e tecnologia come se fosse una cosa rara, no, parlare di un'avanguardia di suffragette, quando in realtà siete già robustamente ovunque. Assolutamente sì, cioè per esempio... Io vengo in ambito professionale proprio da un ambiente molto tecnico, quindi siamo assolutamente tante in Italia e con, diciamo, con questi eventi, con questi gruppi delle GGD, come li chiamiamo noi, insomma, per abbreviare il diciamolo nostro perché lungo nessuno nome, ancora le conosce. Questa forse è la prima trasmissione radiofonica in cui avete voce. Credo, quindi sono noi molto contento. Perlomeno di Roma, credo proprio di sì. Ecco, chi io sono memoria... i GGD? Appunto, come dicevo, nascono? Nascono a Londra nel 2005 da Sara Blow, ingegnere, che diciamo stanca appunto di questo solito cliché della donna non tecnologica, della donna adatta solo a, diciamo, a mestieri o a passioni più magari, ecco, umanistiche, insomma, che lontane dalla tecnologia. Perché le donne leggono molto, capito? Molto più degli uomini, quindi hanno uno spirito Le donne leggono molto anche tramite device tecnologici, non soltanto tramite sui libri, insomma. Quindi da questa ingegnere londinese che nel 2005 fonda il movimento siete trapelate in Italia. Sì. In Italia siete già coordinate in colonne di fuoco in tutta Italia. Sì, ci sono molti gruppi. Quante siete? Ci sono, su Milano, su Roma, Bologna, in Puglia, in Toscana, nata adesso anche in Sicilia, quindi comunque siamo moltissime in tutta Italia. Ogni gruppo lavora in maniera indipendente, però la filosofia di fondo è assolutamente la stessa, cioè il manifesto è quello. Quindi portare allo scoperto donne appunto nell'ambito della tecnologia, gli eventi sono creati con le donne protagoniste, ma non sono assolutamente solo per donne, anzi gli uomini sono ben accetti. Sì, non barare, vengono forse accompagnati da una assolutamente girl geek. Sì, certo. Sennò non possono ci deve venire. Essere insomma la cosa per le donne. La formula di incontro, diciamo gli incontri segreti e clandestini delle girl geeks, avvengono attraverso una formula molto singolare, anche molto maschile. Vedete a tavola mangiando e bevendo. Ma non siamo a tavola. Si mangia e si beve, questo sì, però dopo aver parlato e discusso del tema che viene scelto per ogni serata, quindi si sceglie un tema. Uno degli ultimi è stato... la formula è proprio il Girls Geek Dinner, chiaramente è un'agape tecnologica in cui vi incontrate. Sì, con gli uomini al seguito se sono accompagnati da voi. Sì, sì. E cosa fate? Soprattutto per creare networking, per far conoscere donne con altre donne, per creare possibilità anche professionali, perché insomma il nostro scopo è anche quello. Quindi, come dicevo prima, si sceglie un tema. Uno degli ultimi è stato proprio l'open source al femminile. Si trovano, diciamo, 2-3 donne che faranno degli speech, quindi che parleranno, porteranno le loro testimonianze, la loro esperienza. E poi si discute, insomma, intorno a questo tema e si cerca di fare il più possibile networking fra le persone. 800 24 00 24. Oggi almeno alla radio sono uscite dalla clandestinità, ne stiamo parlando. Fateci sapere cosa ne pensate di questo fenomeno. Già la prima voce di dissenso arriva da Carlo. Carlo, buongiorno. 22 anni. Buongiorno Gianluca, complimenti per la trasmissione. Grazie, potevi evitarlo. Bene, andiamo avanti. Allora, no, io volevo aggiungere uno spunto a quello che tu hai appena detto, e cioè il fatto che le donne siano, soprattutto le casalinghe, siano state le prime capaci ad utilizzare queste tecnologie così innovative, così sofisticate. Beh, è vero fino a un certo punto, perché... Io parlo di un periodo in cui tu eri ancora a suonare l'arpa con gli angioletti, perché io ho 56 anni, tu ne hai 22. Ecco, però tieni presente questo, che io ho sempre vissuto in casa con i miei nonni e mia nonna riusciva a malapena ad inserire la spina del ferro da stiro. Quando sono usciti i primi ferri da stiro, diciamo opzionali, che davano la possibilità di stirare i vari... è andata in tilt e ha continuato ad utilizzare per tutta la vita il primo ferro da stiro, così anche per altri elettrodomestici. Mia nonna aveva un aspirapolvere che si metteva automaticamente in moto infilando la spina semplicemente nella corrente elettrica. Ha sempre rifiutato altre cose, per cui fino a un certo tu avevi punto... avevi una nonna che apparteneva a una generazione in cui amava la subordinazione, la padova. Sì, ma questo vale, guarda Gianluca, vale esattamente anche per ma mia io madre. Dico, io ti posso dire una cosa, a me mia nonna mi ha insegnato la tecnologia, mia nonna aveva un laboratorio di attrezzi e a noi bambini ci insegnava a usare i trapani, i saldatori, via dicendo. Ma era abbastanza diffuso. Sentiamo cosa risponde la nostra ospite Simona Forti a questo ragazzo che dimostra che in realtà la sua esperienza è diversa dalla mia, semplicemente. Sì, assolutamente, anche la mia. Parliamo anche di qualche generazione fa, insomma adesso le cose stanno assolutamente cambiando anche con il grandissimo aiuto che internet tu che studi dà hai fatto? Questo. Io ho studiato ingegneria, non l'ho completata perché poi ho iniziato a lavorare appunto in come security engineer, quindi come tecnico informatico nell'ambito della sicurezza, nel campo della sicurezza, e quindi lavorando non ho terminato gli studi. Il tuo specifico qual è? Proprio la sicurezza dei sistemi informatici? Io sì, reti. Io vengo da quel mondo e devo dire che tutta la mia esperienza, tutta la mia competenza l'ho acquisita da autodidatta. Io sono in rete da quasi 15 anni, sono su internet. Se no non saresti una geek, saresti un ingegnere, sei una smanettona. Assolutamente autodidatta. Sì, e devo dire anche felice di essere, molto orgogliosa di essere una smanettona autodidatta, perché comunque ho imparato tantissimo e ho avuto modo di mettere, come si dice in gergo tecnico nel nostro campo, di mettere proprio le mani sul pezzo. Cioè io ho imparato così, smanettando notti intere. 800 24 00 24, vediamo se esistono altre donne con questa particolarissima e diffusa attitudine che vogliono portare qui la loro testimonianza, o altri uomini che vogliono, questa è una grande occasione che avete, rivendicare il loro primato di uomini che hanno una familiarità con la tecnologia. La tecnologia è maschile, richiede un animo razionale, la donna è mera romantica, inclina alla letteratura, alla poesia, alla divagazione, è sottoposta al suo umore, alle fasi lunari, a quello che volete, quindi non si può occupare di tecnologia. Gianna Martinengo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ti ho dato una bella sorpresa questa mattina. Ricordo che Gianna Martinengo è un'imprenditrice, è stata tra le prime in Italia a occuparsi di temi inerenti al rapporto fra formazione e tecnologia, soprattutto ideatrice di una conferenza internazionale, sarà appunto lunedì 7 novembre a Milano, che proprio tende a certificare questa passione tra donne e tecnologia. Ecco, dici qualcosa di più su quello che fai te. Beh, io ho dedicato 20 e continuo a dedicare tutta la mia vita al rapporto tecnologia e innovazione, sono stati i temi principali della mia vita professionale di ricercatrice prima e imprenditrice dopo. E mi sono avvicinata al binomio donne e tecnologia nel 1997 e da allora tutta la mia attività attraverso convegni, conferenze, conversazioni come quella di oggi è rivolta a dimostrare che il binomio tecnologia e donne è un binomio vincente e quindi a combattere contro gli stereotipi per i quali le donne non sono adatte. Ecco, sei d'accordo con me che esistano questi stereotipi, che esista ancora anche negli uomini più illuminati questa sorta di sorriso interiore verso la donna che si occupa di tecnologia? Io immagino quanti manager di fronte a una ragazza come quella che ho davanti, gli si presenta, sono io il responsabile della sicurezza, si fanno una risata e dicono mandatemi qualcuno serio. Dunque, il sorriso è interiore, diciamo così, c'è di sicuro. Lo stereotipo c'è, però ci sono due aspetti su questo tema. I ragazzi che oggi hanno 18-30 anni hanno certamente tutte le competenze per entrare nel mondo del lavoro che ha bisogno di questo tipo di approccio, quindi tutta la generazione dei nativi digitali che usano computer, telefonini come se fossero parti del loro corpo, che usano i social network come se fosse come un luogo d'incontro, così come noi usavamo le piazze, le scalinate, i portici, eccetera, eccetera, che vivono in rete con simbiosi, rappresentano comunque un grande bene per le imprese, ma anche suscitano una forte incertezza perché le imprese in particolare temono che questi giovani non sappiano dividere il momento reale da quello virtuale, o se vuoi meglio ancora, non sappiano fare lo switch tra la vita reale e la vita in rete. Sì, quindi è quello che tutti i perbenisti della rete, che temono, poi nascondono gli atteggiamenti bicamente luddisti, temono per la sicurezza, la salvaguardia. No, se si divertono troppo non sono efficienti, hanno troppa passione, ci vuole gente con un rapporto più distaccato. Esatto. Io la penso esattamente al contrario, pur appartenendo a una generazione che insomma potrebbe portarmi ad avere tutte queste remore e preoccupazioni. Io non capisco e non condivido chi nelle imprese e nella pubblica amministrazione impedisce l'uso dei social network, non capisco quelli che non capiscono il grande valore di marketing dei social network. Imparo tutti i giorni dai miei giovani collaboratori le nuove modalità e le nuove tecnologie e porto a loro la mia esperienza su quello che riguarda il dialogo, di tutto ciò che riguarda il dialogo persona a persona mediato da tecnologie, perché comunque non è semplice, però insomma ritengo che ci siano delle opportunità che non vengono assolutamente colte nella giusta dimensione. Vediamo di contestualizzare quello che stai dicendo in un quadro molto più ampio. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Filosofo della scienza, grande amico di Melo. Stefano, esiste una sorta di segno diabolico che viene individuato nella donna come se fosse la stigma della strega quando si occupa di tecnologia, ma fenomeno solamente nazionale, o tu che giri e osservi trovi che sia diffuso in altri paesi civilizzati più o meno? Ma guarda, sempre di più mi sembra di poterlo considerare, per quel che ne rimane come residuo, un fenomeno molto nazionale. In Inghilterra, per fare un caso, non ci si stupisce di avere colleghi nella comunità scientifica piuttosto che autiste di metro o di autobus. Qui ancora è percepita come una stranezza che la si guarda come si guarda, bada, tutte quelle minoranze, e non solo di genere, ma che sono considerate altro rispetto a una suddetta normalità. Non si guardano male solo le donne in carriera, le donne che sanno usare la tecnologia, ma come noi sappiamo bene si guardano male per esempio i ragazzi portatori di un qualche handicap più o meno pesante, si guardano male chi conduce stili di vita non riconducibili a quella statistica media che spesso si confonde con un dover essere e con una morale condivisa. È un atteggiamento molto provinciale, poco educato alla diversità, che in qualche senso la tecnologia, se opportunamente usata e se opportunamente pensata, può rappresentare contro questi stereotipi, ormai totalmente fuori da ogni tempo e da ogni logica, un'opportunità di emancipazione, ma non solo per la causa femminile, per ogni forma di presunta anormalità. Non sei d'accordo che in fondo, se possono esserci anche delle ragioni profonde, anche storiche, tu sei un grande studioso anche di processi di stregoneria, in fondo le streghe erano quelle che bene o male sapevano, nella arcaica organizzazione dei luoghi in cui si sono verificate le più grandi stragi di donne, sapevano comunque mettere insieme alcuni oggetti tecnologici, avevano la conoscenza comunque di alcune tecniche. Siamo ancora vittime, anche se inconsapevoli, di quel retaggio? E in qualche senso sì, come giustamente dici tu, le streghe, o quelle che erano considerate e poi giudicate, condannate come streghe, erano delle donne che reagivano a quegli schemi che avrebbero dovuto confinarle all'interno di una dimensione controllata dalle autorità, e dalle autorità che erano prettamente maschili. Ma non pochi di quei retaggi che oggi stesso confinano le donne in uno stato di minoranza o marginalità, così come le altre categorie a cui facevo riferimento prima, spiace dirlo, ma derivano da alcune interpretazioni che vengono da molto lontano, ma che tardano a essere confinate una volta per tutti, di una cultura spesso di matrice religiosa che riproduce in maniera ossessiva, per quanto insensata, quegli stereotipi di inclusione e esclusione di cui sono vittima le minoranze in quanto tali. Le donne fanno parte di queste. Ci fermiamo un secondo, Stefano, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa, riprendiamo tra un istante. 800 24 00 24, vi sentite bollate da un marchio diabolico soltanto perché vi piace la tecnologia? Chiamate, a tra un istante. Email melog@radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix. 800 24 00 24, stiamo riprendendo a parlare di donne e tecnologia. Vedo molti sms di uomini arrabbiati. Ah, oggi non hai proprio argomenti, sei corto di argomenti. Quanti luoghi comuni, perché ho detto le donne amano la poesia, ma l'ho detto con un tono che sembrava inequivocabile che fosse ironico. Vi pare che possa condividere una simile sciocchezza? Le donne sono esseri umani come ogni altra categoria di esseri umani, può avere qualsiasi attitudine, conoscere qualsiasi bassezza e arrivare a qualsiasi livello di stato sublime. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Come la pensa lei? Io penso che nel concreto, se non vogliamo andare sempre a discorsi solamente virtuosi come i nostri intellettuali o intellettualoidi vogliono fare, in quello che ha parlato ora, anch'io ho fatto filosofia morale, ho dato esami di filosofia della scienza, però bisogna restare... Lui la insegna all'università, però non è che questo... lei può criticare chi vuole, figuriamoci, prego. No, ma voglio dire solo una cosa, che io nel concreto... ho provato e sono d'accordo con lei che le donne possono assumere qualsiasi impegno, però c'è sempre una minoranza e una maggioranza che può esercitare quel dato compito. Allora, se vogliamo... Però scusi, se mi permette, non perché la voglio interrompere, dipende dalle latitudini. Con il crollo del blocco dei paesi dell'est, lo insegna Loretta Napoleoni, si sono riversate verso l'Occidente un numero molteplice di donne dei paesi dell'est, donne russe soprattutto. Io a casa mia ho un ingegnere meccanico che mi aiuta nei lavori di casa, che gestiva un'azienda grandissima, per lei era normalissimo. Siamo noi che siamo un po' legati a questo stereotipo, non esiste in assoluto, secondo me, mi contraddica. Sì, però le voglio dire che le donne... per esperienza che vogliono che arrivano a portarsi all'altezza di questi compiti sono donne che perdono molto della cosiddetta femminilità che troviamo nei nostri paesi. Io la posso contraddire con la signorina che ho qua davanti a me, Simona Forti, che non ha nulla di perdita della femminilità. Il solito discorso, non è che si rovinano le unghie a maneggiare i microchip. No, ma io parlo di caratteristiche intrinseche della personalità. Allora se lei... mi faccia un esempio, cosa vuol dire perdere femminilità? No, le voglio dire una cosa. Allora, avere sentimenti, avere la possibilità... No, questa scusi, ma non gliela posso far passare. Che vuol dire perdere sentimenti? Una donna perde sentimenti se si occupa di informatica o di meccanica. Scusi, il momento che posa il saldatore o posa il computer, si mette il perizoma e torna a essere femmina se vuole o se no. Mi scusi, ma non riesce più a farlo. Allora io le dico chi lo dice esempio, lei, scusi? Le vado su un esempio Simona concreto, Forti, scusi, perché... Simona Forti, a lei la possibilità, a te la possibilità di parlare con questo signore? Assolutamente no. Lei ha fatto l'esempio del saldatore. Io stessa a casa utilizzo con il mio ragazzo il saldatore quando abbiamo creato poco tempo fa un cavo audio. Ma perché la ramazza dovrebbe lasciare femminilità? Esatto. Mi spieghi perché? Io mi sento assolutamente donna, credo di avere ancora tutta la mia femminilità e anzi la dimostro ogni giorno. So ancora amare e avere sentimenti, quindi assolutamente non perché adoro la tecnologia e la uso ogni giorno e oltretutto sono una grandissima amante della scienza. Non per questo ho perso i miei sentimenti, anzi... Cioè... Prego, però non faccio parlare l'ascoltatore, sentiamo. Mi scusi signora, io le vorrei dire solo una cosa, che noi inconsapevolmente, noi uomini stessi o donne stesse, cambiamo, ci modifichiamo a seconda dell'esperienza che stiamo esercitando nella vita. Quindi se lei prende, io volevo fare questo esempio semplicissimo, abbiamo delle ufficiali di nave, donne, abbiamo delle pilotesse di aereo, anche delle astronaute. Lei, se sta vicino a queste donne, prima di tutto comprenderà che carattere hanno. Chissà perché sono donne che hanno seguito molto e amato molto il padre, hanno una... Cioè, quindi lei vede una devianza di tipo patologico in donne che scelgono questi mestieri. Beh, è il suo punto di vista. Io non sono d'accordo. Non è un punto di vista. Scusi, io sono un istruttore, pilota. Allora, non le dico su quale linea sono state inserite 7 pilotesse all'inizio. Ma sarà un caso? Sì, può essere benissimo. Erano scartate, le dico io. Ma ci sono anche uomini che amano fare i sarti e i visagisti, che probabilmente alcuni lo fanno perché hanno un'inclinazione alla femminilità, altri lo fanno perché è un bel mestiere. Ma non è in assoluto una regola, capisce? Ma restiamo nell'ambito di minoranze. Lei non mi può dire che la maggioranza degli uomini sono gay oppure sono delle persone. Però ci stiamo avvicinando a una liberalizzazione anche di questo punto di vista. Ma io sono convinto che oggi riassumo il discorso, poi passiamo avanti, che la tecnologia oggi non sia più qualcosa di alieno rispetto all'umanità. L'umanità deve vivere tecnologicamente, perché la tecnologia aiuta gli esseri umani a essere ancora più umani. l'uso della tecnologia non può essere più relegato come un uso esoterico, come l'arte della guerra o la scienza, al mondo maschile, perché anche le donne devono vivere, hanno bisogno di supporti tecnologici, è giusto che diano il loro contributo e lo stanno facendo. Gianna Martinengo, cosa ne pensi di questo dibattito, visto che rappresenti una generazione, non voglio dire anagrafica, ma più riflessiva rispetto al problema? Lo vedi da un punto di vista con un ampio, più ampio sguardo, diciamo. Dunque, voglio reagire a Morigi, perché ha detto una cosa che io condivido moltissimo. Penso che oggi, e vale anche per l'ultimo nostro interlocutore, bisogna chiarirsi sul tema, su che cosa significa uguaglianza, che è un principio giuridico, e diversità o differenza, che è un principio esistenziale, perché dipende appunto dai modi di essere, dalle proprie radici, dalle proprie storie, dall'etnia, dal genere, dal lavoro che si fa, eccetera, eccetera. Da un punto di vista generale, io credo che oggi, nel nostro paese in particolare, e non a livello globale, perché è il nostro paese che ha ancora questi pregiudizi, pubblica amministrazione, impresa e politica abbiano sempre più bisogno di diversità. Questo per quel che riguarda il mio punto di vista in generale, ed è il motivo per il quale, pur credendo fermamente alla complementarietà dei generi nel mondo del lavoro e della professione, perché esiste una leadership al femminile e una leadership maschile, perché esistono delle competenze tecnico-professionali innate o trasversali che sono assolutamente complementari ma diverse fra di loro tra uomo e donna, e quindi ritengo che per fortuna se no non avrebbe senso avere uomini e donne a disposizione. Bisogna avvicinarci sempre di più a un concetto di economia della diversità, perché da un punto di vista non sono affatto discorsi campati in aria, teorici, filosofici, se non si inserisce una risorsa per nulla sfruttata e ancora molto inespressa, quali sono le donne nel mondo del lavoro in generale, perdiamo dei pezzi da un punto di vista economico. Sentiamo un attimo Cristina, scusa un attimo, un'ascoltatrice che deve darci un contributo, ti aiuterà anche a te poi a completare il discorso. Cristina. Buongiorno. Eccomi. Allora, dunque, io inizialmente volevo parlare della mia esperienza con la tecnologia, che nasce da quando ero piccolissima, io ho 44 anni, mia mamma non è ancora capace neanche, sa leggere i messaggi ma non li sa compitare, mentre invece a causa della mia presenza accanto a questi meccanismi tecnologici ho dovuto e voluto imparare, anche per la musica, per i video, tutte queste cose qua. Sì. Poi ho sentito quel signore che ha parlato prima e mi è venuto un altro commento da fare. In Italia manca il concetto di persona, nel senso che noi parliamo sempre dell'uomo inteso in senso generale, ma parlando dell'uomo in senso generale si predilige tendenzialmente il sesso maschile. Io ritengo che le persone sono persone indipendentemente dal sesso, quindi ci può essere la casalinga che ha un atteggiamento mascolino, come tecnico di computer che è una gragnocca, scusate il termine. Sì, sì, chiaro, sì. Quindi è anche tra i maschi, come diceva lei, c'è la stessa cosa. Finché non passa il termine che le persone sono tutte uguali e che quindi hanno gli stessi diritti, le stesse possibilità e le stesse capacità, non potremo essere larghi di vedute nell'immaginare una donna. Anche consenti Cristina che nell'ambito dei generi ci può essere un ventaglio vastissimo di maniera di esprimersi, quindi non è che per forza tutti i maschi che fanno gli stilisti debbano essere gay, ma come esatto. Nemmeno tutte le donne soldato sono donne con i baffi che nascondono il loro problema non risolto col padre. Cristina, ci fermiamo solo un istante a dare le informazioni del traffico, poi continuiamo. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. 800 24 00 24, riprendiamo a parlare di donne e tecnologie. Oggi voglio tenere la trasmissione a un livello alto, volevo entrare nello specifico, volevo parlare delle discipline di cui stanno occupando le donne, della ricerca che stanno facendo le donne, di questa maniera di organizzarsi divertente, ludica, spensierata, scanzonata, di vedersi in delle grandi riunioni conviviali in cui si parla di tecnologia, ci si confronta, ci si contamina, poi si mangia e si beve come fanno gli uomini ai raduni del dopolavoro e del calcio. Però ahimè devo tornare sull'argomento che è sempre quello solito, sempre quello antico come il mondo, in cui gli uomini temono di perdere qualcosa, temono che si perda qualche pezzo della loro egemonia, e quindi le donne che si occupano di tecnologia perdono qualcosa della loro femminilità. Antonella, buongiorno. Antonella, è al telefono? Niente. Allora riprendiamo con Gianna Martinengo. che è un'imprenditrice che tra le prime si è occupata proprio di questi problemi in Italia. Ci dice esattamente cosa accadrà, Gianna, fra qualche giorno a Milano? Il 7 di novembre abbiamo la quarta edizione di questa conferenza internazionale che ci siamo inventati appunto 5 anni fa, che ha come obiettivo quello di proporre una visione nuova del rapporto donne e tecnologie, ma non come problematica di genere, ma come strumento per identificare, rendere visibile, valorizzare il talento femminile nella ricerca, nello sviluppo tecnologico, nelle innovazioni. I primi 2 anni il format era dedicato all'Information Communication Technologies, i secondi 2 anni, di cui siamo al quarto, alle tecnologie, alle bio e nanotecnologie, a dimostrazione, e qui avremo relatori uomini e donne, cioè persone che hanno dimostrato con il loro merito e la loro competenza di poter fare i relatori in questa conferenza, perché hanno un'esperienza, una straordinaria storia professionale e umana alle spalle, ma è evidente che il nostro compito è anche quello proprio di rendere visibili queste donne che lavorano con soluzioni tecnologiche assolutamente straordinariamente. Non trovi strano, scusami Gianna, che dobbiamo sì. ancora, noi già ci siamo sentiti l'anno scorso più o meno sugli stessi sì, temi, sì, dobbiamo sempre ogni volta ricreare comunque il distinguo avevo sul fatto avevo una battuta pronta che non hanno la coda e non gli crescono i peli addosso alle donne che sono tecnologie. Avevo una battuta pronta per il signore che è intervenuto, con tutto il rispetto, visto che io non solo sono una donna, ho 2 figli e un bel 6 nipoti, quindi insomma la mia parte credo di averla fatta. Penso che il cambiamento delle donne nella professione e anche nella propria personalità dipenda anche molto da chi è accompagnata. Vediamo come sono questi uomini i loro compagni e vediamo se veramente a loro spuntano i baffi, perché insomma è un problema di persone, come giustamente bisogna dire, ma è un problema di complementarietà, come ho già detto, ma è un problema anche di cultura, del pregiudizio o del non pregiudizio, che deve toccare uomini e donne. Ecco, abbiamo Antonella, l'abbiamo recuperata. Antonella. Sì. Ecco Antonella, avanti. Buongiorno. Molto velocemente la tua esperienza. Posso testimoniare un fatto al contrario, nel senso che sono io a casa che faccio tutto, uso il trapano, monto i lampadari e mio marito non è capace assolutamente di fare niente. E anche dal punto di vista dell'informatica sono io la prima a spiegargli come funzionano i programmi, e quindi diciamo, e mio marito devo dire che accetta perché comunque non è capace, quindi comunque ci deve essere. Sì, ecco, mi confermi una linea di trasmissione di lavori domestici tecnologici che passa di donna in donna. So che per molti sembrerà stranissimo, ma è così. Morena Menegatti, buongiorno. Buongiorno. È una delle fondatrici del gruppo Girls Geek Dinners di Milano. L'ho tenuta in ascolto fino adesso perché vorrei che anche lei ci aiutasse a creare un passo avanti, a fare un passo avanti rispetto a un discorso, no, rischia di essere soltanto gli uomini e le donne, cosa fanno gli uomini, cosa fanno le donne. Lei in particolare di cosa si occupa nella vita privata? Privata, scusi, professionale. Io sono consulente in ambito della comunicazione digitale e delle pubbliche relazioni con i nuovi media per Epson Italia, quindi per una grossa azienda del settore IT. E ho mutuato questo interesse anche al servizio delle Girl Geek Dinners, proprio perché diciamo molto spesso noi siamo persone che si mettono a fare, ma poi comunicarlo all'esterno diventa difficile, quindi abbiamo trovato un buon compromesso, per cui ecco, tutta la parte tecnologica, quindi tutto il mettere le mani di cui si è parlato fino ad oggi, quindi queste caratteristiche e questa linea di trasmissione femminile di generazione in generazione, molto spesso si è ridotta ad un saper fare le cose, ma poi è bene che le persone che sono intervenute in trasmissione sappiano anche che esistiamo e che lo possiamo fare, no? Come si diceva prima. Mi può descrivere una delle vostre riunioni, tipo come avviene? Che tipo di dibattito viene messo sul tavolo, a parte diciamo la piacevolezza di stare assieme? Ma noi normalmente individuiamo quelli che possono essere degli argomenti di discussione di interesse generale, vuoi per attualità o vuoi anche per interesse proprio comunicatoci dalla community. Noi viviamo molto online e abbiamo questo confronto costante con la nostra community e possiamo decidere di parlare di un argomento. Per esempio, di recente abbiamo parlato della mobilità e dell'utilizzo che si fa degli strumenti in mobilità, dai tablet agli smartphone, dal punto di vista tecnologico, sia per la professione che anche per aspetti diciamo più ludici. Quindi noi ci incontriamo, invitiamo delle speaker che nel loro settore hanno fatto qualcosa di molto interessante, molto anche all'avanguardia per quanto riguarda in questo caso gli smartphone e quant'altro, e condividiamo questa conoscenza e queste esperienze. Per noi è fondamentale poter parlare di queste cose, perché proprio quando siamo nate nel 2007 eravamo già alla ricerca di spazi, di momenti di confronto, perché troppo spesso passavamo per mosche bianche. Ecco perché questi spazi di confronto sono rari. Oggi la sua collega che è qui in studio con me dice: sai, la prima volta ci chiamano alla radio. È anche vero che in fondo non c'è molta letteratura giornalistica su di voi, avete una grande visibilità in rete, ma è come se questa mattina avessi l'impressione di aver scoperto una sorta di setta clandestina, ma così non è. No, non è così, perché diciamo la nostra è una vita un po', come dire, a metà strada fra il reale e il virtuale. Noi abbiamo iniziato a scoprire il web negli anni 90 e abbiamo iniziato a metterci mano, e per noi è normale oggi avere una possibilità di incontro virtuale che poi si traduce in un momento di incontro reale. Non ci sono grosse differenze, per la verità, ed è la cosa molto difficile farlo capire alle persone che non vivono questa metamorfosi continua, e alle aziende che invece sono un po' sospettose, dubbiose, come si diceva prima, delle volte hanno un po' di scetticismo nei confronti di chi sembra si stia troppo divertendo. In realtà, ecco, sono strumenti che stanno sempre più diventando strumenti di lavoro per parlare con una comunità che esiste e che o si sceglie, diciamo, di esserne parte, oppure si perdono delle opportunità molto interessanti di confronto. La ringrazio, Morena Menegatti, ringrazio Simona Forti, che è qui a Roma e fa parte dei GIC Dinners di Roma, Stefano Morigi, che ci è intervenuto al telefono, Gianna Martinengo, che il 7 novembre al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Roma presenterà altri aspetti inediti di questo problema. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.